RadioTube Social Village di Marta Cagnona. 16:06 minuti e 6 secondi in questo istante a Radio 24 iniziano le nostre due ore in diretta del sabato pomeriggio con RadioTube Social Network e con RadioTube Social Village. Tanti gli argomenti di questa puntata, parleremo molto di musica nella prima ora, ma anche di televisione e di serie TV. Nella seconda ora, come sempre, l'attualità della rete dalla rete con un co-conduttore d'eccezione e un ospite molto molto curioso. Sentiremo insieme. Intanto, per tenervi in contatto con noi, 349-238-6666 il numero per i vostri SMS e WhatsApp, e poi ci sono anche i miei social, cioè @ Marta Cagnola su Twitter e su Instagram. Adesso però vorrei partire con il primo argomento di questo nostro RadioTube ed è una serie TV. Raga, me l'avete vista la storia di Cane Gallo? No, ma la guardo. Non me la puoi guardare perché l'ha tenuta soltanto 30 secondi, ma io ho registrato la storia. Aspetta. Greve. Ma chi è questa? Non lo so, ma c'è uno smalto da zoccola che fa paura. Ce l'ho anch'io quello smalto. Appunto, vede. Ma Eva l'ha vista, secondo voi? Non lo so, a me non mi ha detto niente. Vabbè, Eva non dice mai un cazzo. Poi stanno ancora insieme, né Federico? Boh. La dobbiamo far vedere, secondo voi? Non lo so, non c'ho idea. Ecco. Allora, no, era lime, era rum lime, bianco. Sì. Io no, rum bianco. Vabbè, Virgin Mojito con la Schweppes. Sì. Eva, ma con Federico? Che? In che senso? Non lo so, come sta, è tanto che non lo vai a trovare a Torino. Sì. No, perché noi ci chiedevamo, state ancora insieme? Non siamo in super ritardo? Sì. Vai. Sì. Andiamo. Vai, dai. Un po' di music, per favore. No, Silvia, la musica. Non Silvia, per favore. Dai. No, io una volta vorrei stare davanti e vorrei mettere la musica. Sapete che sono una grandissima fan di questa serie, perché io lo dico in ogni occasione. Abbiamo seguito il debutto di questa serie nelle varie stagioni e finalmente adesso è tornata su Netflix e Team Vision. Contentissima che sia tornata Scam Italia e bentornato Ludovico Bessegato. Ciao Ludovico. Ciao, grazie dell'invito. Sceneggiatore, ma anche qualcosa di più, perché, lo ripetiamo per chi non conoscesse Scam, è una serie molto particolare, perché è una serie italiana, ma che nasce da un format internazionale, quindi si tratta di sceneggiarla, ma di rimanere all'interno di una sorta di schema che ha appassionato spettatori in tutta Europa. Esatto, diciamo che in Italia magari non siamo abituatissimi a questi tipi di cosa, ma negli Stati Uniti è molto frequente. Alcune delle serie americane più amate vengono quasi tutte da format israeliani, a partire da Homeland, passando per In Treatment fino a Euphoria. È abbastanza frequente che ci si contamini e a volte forse è più onesto comprare i diritti di format piuttosto che, come a volte si fa, ispirarsi, no? Che uno lo fa un po' sotto banco. Noi lo dichiariamo, sì. Scam ci è piaciuta tantissimo, quindi abbiamo, non io fisicamente no, Cross Production ha acquisito i diritti di format e abbiamo lavorato per renderla, però, come avviene poi sempre in questi casi, renderla poi nostra nel senso sicuramente italiana, poi romana e poi personale. Quindi ho provato a lasciare delle cose mie come autore e i ragazzi, che sono tutti bravissimi come attori, hanno tutti avuto la possibilità e il merito di lasciare molto di loro, della loro creatività nei loro personaggi. È una serie teen, perché si tratta di liceali, eppure è una storia che riesce a conquistare moltissimi spettatori anche della generazione dei genitori, ad esempio dei ragazzi o potenziali tali. Secondo te perché questa platea così larga e non era mica scontato, non succede spesso? È vero, non succede spesso. Secondo me la risposta è che Scam per me non è un teen. Oh, bene, dai, facciamo un... Facciamo subito un'affermazione pesante. Cioè, accetto anch'io quando lo devo definire, dico teen drama, perché effettivamente è più semplice. È un'etichetta. Mi riconosco, nel senso che riconosco che c'è un modo, c'è stato soprattutto in passato, in un'altra decade, in altre decadi, un modo di cambiare le regole con cui si raccontano le storie, di cambiarle quando queste storie erano interpretate da ragazzi sotto una certa età. Un po' come per dire si fa per i bambini. Io immagino che per tutti gli adulti che hanno avuto l'idea di avvicinarsi a Scam abbiano apprezzato proprio questo, cioè che alla fine non c'è un filtro o un modo di racconto diverso. Sono ventenni, perché ormai nella quarta stagione raggiungono più o meno questa età, che hanno delle storie raccontate come si raccontano le storie normalmente. Poi è chiaro che, ed è però anche la parte bella, un ragazzo di 18-19 anni, ed è lì che comunque rimane teen, ha delle priorità, per sua fortuna, diverse dalle mie o dalle tue, no? Ma vedere una persona che ha ancora così, che ha ancora un accesso così diretto con i propri sentimenti, può essere liberatorio e può darci delle buone vibrazioni da spettatori. Questa è la quarta stagione. Ogni stagione si focalizza su uno dei protagonisti e ne fa proprio il protagonista centrale della serie. Nella prima stagione c'era stata Eva, nella seconda stagione Martino, nella terza Eleonora, e la protagonista della quarta stagione era quella che mi incuriosiva di più, e parliamo di Sana, una ragazza che fa l'ultimo anno del liceo, italiana, lei è nata in Italia, musulmana. Questa linea narrativa è una linea allo stesso tempo affascinante, ma anche delicatissima, perché il lavoro non deve essere stato semplicissimo. Sicuramente è stata la sfida di scrittura e anche poi la sfida realizzativa più importante. Aveva bisogno di uno studio. E quindi ho contattato una donna straordinaria, Soumaya Abdelkader, che è sociologa, scrittrice, già autrice di due libri per Mondadori molto belli. Ho passato tante ore con lei, ho frequentato la sua casa a Milano, ho conosciuto le sue figlie, che una porta il velo, l'altra non lo porta. Ho passato tanto tempo anche con il marito, Abdallah. Io non ho voluto dare risposte nella quarta stagione, io ho voluto aprire delle domande. Siamo sicuri che portare il velo sia sempre solo una cosa che opprime la donna? Siamo sicuri che essere musulmani sia per forza questo? Siamo sicuri che una famiglia musulmana sia per forza questa cosa qui? E ho sentito raccontare anche cose meno edificanti, che la stessa Soumaya racconta e contro cui Soumaya combatte. Perché? Perché le cose sono complesse. E in un momento che tu hai visto, che è questo momento in cui il personaggio di Sana parla lungamente con un suo amico e si lamenta un po' di come le persone della sua scuola a volte si dimostrino totalmente incapaci di comprenderla e siano pregiudizievoli nei suoi confronti, e lui la mette anche di fronte alle sue responsabilità, gli dice sì, però tu sei un po' stronza, Sana, perché questa è la cosa divertente, secondo me, di questa quarta stagione, che Sana, la ragazza musulmana, è una stronza, non è una persona facile. Sì, il rischio era quello di far venire fuori Santino, invece lei è una rompiballe e glielo dicono. Non è una persona semplice, è arrogante, è presuntuosa, tratta molto male gli altri. Davvero, non ho voluto dare risposte, ho cercato di suscitare domande, e poi ognuno farà la sintesi che vuole. Ludovico, davvero grazie, io consiglio a tutti di vedere Scam, perché non è una serie teen, va bene questa? Non è solo teen. Allora, Netflix Teen Vision, c'è la quarta stagione, però se non l'aveste vista, partite dalla prima così capite bene com'è la situazione, fatevi conquistare. Grazie a Ludovico Bessegato, forza Scam, perché sono una grande fan. A presto, Ludovico. Grazie mille. RadioTube Social Village. E dopo questo blocco dedicato a Scam ne approfitto per farmi un po' di autopromozione, ma sì, dai, lo faccio, perché per tutti gli appassionati di serie TV in questo periodo di quarantena ci è venuta un'idea. Abbiamo deciso di inventarci un podcast che quindi sarà online dalla prossima settimana, e ogni settimana ci sarà una puntata nuova di un podcast che si chiamerà Ancora una, poi smetto. Ovviamente, che cosa? Le puntate delle serie TV, ogni settimana con dei super esperti di serie TV, e saranno puntate monografiche. Quindi andremo ad analizzare i vari generi, perché se ci è piaciuta una serie di un genere, perché non andare sul sicuro e non scoprire altre puntate, altre serie di quel genere, oppure qualcosa che non abbiamo mai visto, vogliamo scoprire e andare sul sicuro e andare direttamente sul meglio. Dalla prossima settimana solo in podcast su radio24.it e con la nostra app di Radio 24. Vi avevo anticipato che avremmo avuto molta musica in questo RadioTube di questo sabato. Beh, cominciamo così, secondo me, dalle prime note, capirete subito con chi stiamo per parlare. Lo marel sempre chi il me guarda e me dice ti ste fe qui mani in mano, mi risponde a gode fa in quarantena, mi suonò te se ti a suona il piano. Vorrei dire che le dure sta a cammina, per fortuna che anche un piccolo terrasetto anche il su mi metti sulla cadrega, che noi lì piscininghe e tre quattro fiorelli tutti insieme con la gatta e il me. Un pezzo che mi è piaciuto, che mi ha incuriosito, perché il titolo è molto carino, perché il tema è molto attuale e perché l'artista è uno dei più grandi in Italia. Benvenuto a RadioTube, a Fabio Concato. Buongiorno Fabio. Grazie infinite, grazie a te. Allora Fabio, mi racconti che cos'è questo pezzo, come ti è venuta l'ispirazione e intanto perché il titolo? Allora, questo qui è l'Umarel, non so se lo vedi. Eh sì, noi ci vediamo in video, le proprio in un Umarel, sì. Le proprio in un Umarel. Allora, questo Umarello mi è stato regalato da un grande amico qualche tempo fa. Io l'avevo però appoggiato dentro un cassetto, insomma, in qualche modo. Non perché, non, per carità, mi è molto simpatico l'Umarino, però probabilmente, non lo so, ero soprapensiero. E qualche settimana fa, andando a rivedere, come è successo a molti di noi, cosa c'è dentro i cassetti vari, eccetera, mi è tornato tra le mani questo Umarel e l'ho piazzato sul leggio del piano. E dopo qualche giorno, forse perché anch'io non sono proprio regolarissimo in quarantena, proprio a livello mentale, emotivo, psicologico, eccetera, eccetera. Non lo è nessuno, Fabio. Sì, ma questo lo immagino. L'ho guardato e lui sembrava che mi chiedesse se potevo scrivere qualcosa, se era possibile fare qualcosa per confortare un po' le persone, eccetera. Insomma, se potevo fare la mia parte, ecco, più che altro. Da lì la storia è stata velocissima, nel senso che il titolo ovviamente era quello, è lui, l'Umarel. Questo titolo mi ha anche poi fatto scattare la cosa del milanese, cioè del dialetto. Io tra l'altro non avevo mai cantato nel mio dialetto, non mi sono però fatto intimorire quando ho cantato la canzone che ho scritto con Pino Daniele in dialetto napoletano, per cui figuratevi se mi sono fatto intimidire dal milanese, anche se non è che lo sappia benissimo, non lo parlo spesso, eccetera. Dicevo, è stata un'operazione velocissima perché io in 2 ore e mezza precise ho chiuso sia la musica che il testo. Poi l'ho presa, l'ho registrata con un microfonino, con il mio telefonino, a dire il vero. Ho mandato dunque la traccia del canto con la traccia del piano elettrico ai miei collaboratori, loro ci hanno lavorato una mezza giornata e poi tutto in remoto naturalmente, e poi mi hanno rimandato la cosa, ho ripreso il telefonino, gli ho fatto un canto un pochino più decoroso e basta, e poi è stato un problema per il fonico che invece ha dovuto, insomma, mi ha detto che insomma è stato abbastanza faticoso nonostante la mia bravura, nonostante le mie cose, sai, le cose che si dicono. Perché comunque ero con un telefonino, insomma, per fortuna avevo il telefonino, insomma. E sempre santi fonici, santi registi, quello sempre. E devo dire, quello sicuro. E devo dire che da questo punto di vista la tecnologia è eccezionale, no? Nel senso che se non avessimo anche questa possibilità, insomma, ecco, l'Umarell non sarebbe uscita. Sarebbe uscita probabilmente in questi giorni o fra 10 giorni, insomma. Fabio, l'usare il dialetto milanese ha una tradizione estremamente ricca, una tradizione musicale, una tradizione teatrale, mi viene da Iannacci in poi. Che impressione ti ha fatto avvicinarti a questa tradizione poi? Beh, intanto sono stato sicurissimo dal primo secondo, come ti dicevo prima, che l'avrei fatta in milanese, perché era un altro, così, segnale di solidarietà, di amore nei confronti di questa regione, di questa città, che sono state così martoriate. Credo che sia la regione più martoriata d'Europa, quindi, e mi sono accorto che, vabbè, oltre che essere un dialetto molto difficile e molto bello, è anche molto efficace, cioè... non lo so, forse anche perché ci sono le tronche, io ho provato, ci sono le parole tronche che ci aiutano. capisci, io ho provato a cantarla in italiano, è impossibile. E quindi, il milanese sta vita, porca miseria, si aiuta, ma scherzi, no, ma poi è bello, poi non lo so, io in questo periodo forse, ripeto, abbiamo riflettuto, ho riflettuto anche fin troppo probabilmente, però mi è venuto in mente Enzo Iannacci quando ho cominciato a scriverla, al punto che alla fine ho messo anche una piccola dedica, ciao Enzino, poi ognuno capisce quello che vuole, per me questa è una canzone... che me lo ricorda, e mi sarebbe molto piaciuto coinvolgerlo in questa avventura, in questa piccola avventura, e credo che lui l'avrebbe fatto con un grande piacere, anche perché era uno dei più giovani amici di mio padre, per cui ogni tanto lo vedevamo anche a casa, veniva a suonare il pianoforte, eccetera. Poi doppiamente colleghi? Io ho fatto finta di fare medicina, siccome poi allora, ma sì dai, ma scherziamo, allora poi io facevo cabaret tutte le sere e quindi avevo anche un buon alibi, nel senso che tornando a casa alle 3:30 della mattina non potevo andare alle 7 a guardare i vetrini a istologia, perché poi c'era da fare a pugni per entrare a istologia a chi vedeva il vetrino e chi invece non riusciva mai a vederlo, e quindi avevo questa cosa. Poi, quindi, insomma, non direi che medicina è... Però mi sarebbe piaciuto molto anche fare lo psicanalista, tu pensa un po' come sono conciato, mi piaceva molto, sì. L'animo umano l'ha indagato in altri modi. Sì, sì, no, ma poi insomma, degli amici psichiatri e psicoanalisti mi hanno detto che avrei potuto benissimo farlo, perché ho empatia con gli altri esseri umani, perché cerco sempre di capirli il più possibile o di mettermi nei loro panni. Ecco, questa è... No, poi Devo dire anche che fare il cabaret, sai che la nostra sede è proprio davanti alla sede del derby, io lo vedo, se mi volto, io lo vedo dalla finestra, insomma è una parte della storia di Milano che ha cambiato la storia d'Italia e la storia della cultura in Italia. Noi l'abbiamo fatto per 3 anni, tutte le sere, escluso lunedì naturalmente, perché lunedì sera era chiuso. Ma ho dei ricordi fantastici, veramente fantastici. E ho incontrato e conosciuto degli artisti, dei giganti veri. Ti strappo la promessa, quando ci si potrà spostare di nuovo, ci vieni a trovare, così vista derby ci racconti un po' di ricordi. A me farebbe tanto piacere. Anche a me tantissimo, Marta. Fabio, questo periodo ha interrotto tanti progetti. Ognuno di noi aveva un progetto artistico, un progetto di vita, un progetto, e quindi poi bisognerà riannodare i fili di un progetto. Tu cosa non vedi l'ora di ritornare a fare? Ma io non vedo l'ora di ritornare a cantare, perché quelle 2 ore in cui io canto, in cui faccio il mio concerto, sono in assoluto le ore in cui io sono veramente me stesso e non sono filtrato, non sono posticcio, eccetera, e quindi quella cosa mi manca molto, mi addolora molto non cantare, ma mi addolora anche, mi dispiace anche molto non viaggiare più, non fare incontri, non vedere posti, paesaggi o piccoli centri nei quali non sarei potuto mai andare se non fosse stato per la musica, no? E quindi ecco, questo aspetto mi manca molto. Sarà dura, ma noi non vediamo l'ora. Intanto Fabio, io ti aspetto appena si aprono le porte e io ti aspetto qui. E intanto, guarda, con grandissimo piacere. Ci tiene compagnia Lumarel, hai avuto proprio un'idea deliziosa ed è bello che insomma ci sia anche un brano di Fabio Concato in questo periodo che ci tiene compagnia e che accompagnerà anche qualche nostro ricordo. Ti ringrazio tanto, Marta, e saluto e abbraccio, con rispetto parlando, tutti i vostri ascoltatori, tutti i tuoi ascoltatori. Ok? Grazie Fabio, grazie mille. Ciao, ciao Marta, a presto. Radio Tube Social Village. Allora, questa sarebbe stata la serata della finale dell'Eurovision. Cosa sarebbe successo? Avremmo vinto l'Eurovision? Non lo possiamo sapere. Sicuramente tanti cantanti sono rimasti un po' delusi, perché certo la gara, le prove, andare a Rotterdam, sfidarsi, farsi conoscere da tutta la stampa europea, ma soprattutto da un pubblico immenso. L'anno scorso c'erano stati 182 milioni di telespettatori in Europa e non solo, l'evento televisivo non sportivo più visto dell'anno, anche per quanto riguarda l'anno scorso. La scorsa settimana avevamo svelato cosa sarebbe successo in questi giorni, allora facciamo così, un pochino di musica e poi diamo il benvenuto al nostro ospite. Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale. E se ti penso tu sei un'anima. Forse questo temporale che mi porta da te. E lo so, non dovrei farmi trovare senza un ombrello, anche se ok. Quanto ho fuga torno sempre a te. Che fai rumore qui. E non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene. Ma fai rumore, sì. Che non lo posso sopportare. Silenzio innaturale. senza parlare, senza un posto a cui arrivare. Consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare, che mi ritrovo negli stessi posti. Questa sera, nel mondo di prima, diciamo, questa canzone e questo artista avrebbero dovuto rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest. Lo sapete, noi seguiamo sempre con affetto questa manifestazione. Questa sera ci sarà lo stesso una serata particolare. Si chiamerà Europe Shine a Light, andrà in onda su Rai 1. Ci saranno tutti i cantanti dell'Eurovision Song Contest, ma con delle performance ovviamente dal loro paese. Una serata non competitiva, nata proprio guardando i video che arrivavano dall'Italia con tutti quelli che cantavano dai loro balconi proprio Fai rumore di Diodato. E quindi diamo il benvenuto a RadioTube a Diodato. Ciao Antonio, grazie per essere qui. Grazie. Posso sapere qual è stata l'altalena dei tuoi stati d'animo in questo periodo relativamente a Eurovision? Relativamente a Eurovision, devo dire che allora ho avuto modo di cominciare a concentrarmi sulla questione Eurovision un po' più in là, quindi quando eravamo già a metà febbraio, intorno al 20 febbraio, e devo dire io personalmente, poi in realtà tutto il team stava già lavorando da tempo, e devo dire che questa cosa qui però mi ha permesso anche di capire che l'Eurovision avrebbe potuto avere difficoltà. Poi l'emergenza è esplosa un po' più avanti, però questo comunque, io poi sono molto realista in queste cose qui, e quindi quando tutti continuavano a lavorare, perché poi abbiamo continuato a lavorare fino a marzo inoltrato, e io dicevo, ma mi sembra improbabile che si possa fare questa cosa qui, e forse non sarebbe neanche giusto visto le cose che stanno accadendo. Quindi l'ho vissuta in realtà con molta serenità. A me piace tanto viaggiare, mi dispiace non aver potuto viaggiare con la mia musica, ma sono molto contento che l'Eurovision mi stia comunque dando la possibilità, o stia dando comunque la possibilità alla mia musica di viaggiare, perché mi arrivano messaggi da tutto il mondo, gente che canta, ricanta, traduce, Fai rumore, è davvero impressionante. Questo è stato l'anno di Diodato, non poteva essere un anno normale per te, doveva essere un anno particolarmente speciale, perché tutto è stato speciale. Sanremo, il David, e anche se non possiamo sapere se avresti vinto Eurovision, io sono sicura 100% e nessuno mi può smentire, però hai in un certo senso fatto nascere il semino di questa Eurovision Shine a Light, cioè l'Europa si riunisce lo stesso la sera della finale mancata, un po' grazie anche a te. Questo è motivo di grande orgoglio. Avrei potuto vincere l'Eurovision e avere una soddisfazione personale, no? Pensare che invece ciò che è accaduto a tutti noi, e quindi la storia di tutti noi, venga in qualche modo raccontata poi attraverso la musica in questa manifestazione qui, è una cosa che ha un valore altro proprio, è molto più profondo sicuramente. Che dire, mi sento da questo punto di vista molto fortunato, privilegiato, ed è un onore che tutto ciò stia partendo da Fai rumore, diciamo. Poi in realtà parte dalla manifestazione di umanità di cui la gente aveva sentito il bisogno in questi mesi, utilizzando poi una mia canzone. Questo è stato anche il momento più commovente che ho vissuto da sempre, legato anche alla musica. Beh, quest'anno di momenti commoventi hai fatto un po' il pieno, diciamo forse l'ultimo cronologicamente è questa arena di Verona vuota, illuminata d'azzurro e del tricolore, centinaia di anni, millenni di storia, e tu da solo dentro a cantare. È impressionante, ma anche perché senti proprio tornare indietro le tue parole arrivano a questa roccia storica, queste pietre storiche, e poi tornano indietro con un bagaglio diverso e hai la sensazione proprio di vivere in un tempo sospeso, che appartiene sicuramente, la condizione in cui ero apparteneva sicuramente a ciò che stiamo vivendo tutti noi, no? Ma non mi sono sentito solo, e questa è la cosa strana. Non ho avuto un senso di solitudine, anzi ho avuto un senso di comunità, ho avuto la sensazione di fare un viaggio nel tempo e quindi di incontrare le culture di migliaia di anni, e questo è un altro grande regalo che mi ha fatto la vita. Eurovision, parte la prima vittoria un po' lontana nel tempo di Giuliola Cinquetti, esattamente 30 anni fa vinse Toto Cutugno, che poi è diventato una bandiera dell'Italia all'estero, successo planetario. Ma in pochi si ricordano che Eurovision andò anche, e proprio in Olanda, Domenico Modugno. Avete molti punti in comune, la regione di nascita, l'etichetta discografica, perché in pochi hanno la fortuna di avere un'etichetta discografica con una storia come quella di Carosello, e ti toccherà fare un omaggio a Domenico Modugno. Me lo stanno chiedendo tutti, a questo punto io provo a fare qualcosina, però l'ho già fatto in passato più volte, perché lui è stato veramente, da una parte un faro, cioè veramente un esempio da seguire, dall'altra parte una specie di parente. Io con pochissimi artisti ho questo tipo di sensazione. Uno è lui, uno è Massimo Troisi. Ho proprio questo, sì, ho questo amore da, cioè, zio, cioè, non lo so, comunque una persona che è stata importante, che mi ha guidato. Io l'ho studiato tantissimo a Modugno, sono rimasto affascinato sin dall'inizio da questi movimenti, da questa energia che metteva quando cantava, ed è ciò che probabilmente lo ha tradotto a livello mondiale, no? E ha portato la lingua italiana ad essere ascoltata in tutto il mondo. E quella lingua lì portava dentro di sé un bagaglio culturale importantissimo, che faceva parte proprio della nostra cultura, anche la cultura più povera, quella che arrivava dalla mia Puglia in quel periodo lì. Quindi ogni volta che accostano il mio nome a Modugno, mi sento, hai nominato prima Carosello, no? E oggi dicevo in conferenza stampa, quando ho firmato con Carosello Records, sono andato a vedere sul sito per vedere, insomma, ho detto fammi vedere se mi hanno incluso già. Beh, fammi controllare. Sono andato là di e c'era Domenico Modugno e Diodato, quindi io ho detto vabbè, a posto così. Mi hanno già dato tutto quello che mi potevano dare. Abbiamo tutti lasciato qualcosa in sospeso prima della pandemia. Il primo filo che vuoi riallacciare? Sicuramente ha a che fare con la condivisione, quindi una cena con degli amici, poter abbracciare delle persone, poter abbracciare la mia famiglia e poi poter in qualche modo mettere a frutto anche le cose che sto imparando durante questo periodo, perché è un momento che ci dà delle opportunità, lo sappiamo, ce ne siamo accorti di tutti. Un momento difficile che continuerà ad essere difficile, ma è un momento per esempio in cui ho cercato di studiare tanto tutta la situazione dei lavoratori dello spettacolo, no? Ho partecipato ad un forum sull'arte, la cultura e i lavoratori dello spettacolo, che per me sono tutti sotto la parola cultura. Non capisco spesso questa divisione che si fa, e quindi mi piacerebbe in qualche modo provare a fare anche qualcosa per tutte quelle persone che mi permettono di fare al meglio il mio lavoro e che in questo momento qui, come tanti altri devo dire, soffrono particolarmente, e che forse in alcuni casi più di altri vengono molto spesso dimenticati. Grazie Antonio, davvero bravissimo, in bocca al lupo per questo Europe Shine a Light. Io tra le cose che voglio fare sarà riabbracciare Diodato fisicamente, quando potremo. Un abbraccio grande, ciao Antonio, grazie mille. So when you touch me I feel all over my body. You make me feel like I'm spinning from the way that you want me. Put on a show, cuckoo completely. Some people think I love. hop is freaky, freaky, freaky. They say we crazy, I must be faking. But you and I, we like it freaky, freaky, freaky. Drinks on rooftops and kiss in the dark. Non solo Italia questa sera, perché ci sarà in Europe Shine a Light anche San Marino. San Marino con una cantante italiana bolognesissima, Senit. L'abbiamo intervistata in questi giorni per sapere appunto anche lei cosa pensa, cosa prova per questa serata di Europe Shine a Light questa sera. Ma guarda, la mia esperienza Eurovision è cominciata nel 2011, quindi quest'anno sarebbe stata la seconda edizione, la mia seconda partecipazione. E l'amore per Eurovision l'ho scoperto grazie a San Marino, che nel 2011 mi ha invitato a partecipare come delegata. Lo ricordo, sono italiana, ma come hai detto tu, siamo comunque in famiglia, è comunque casa, è comunque un fratello più piccolo, diciamo così, lo stato di San Marino, con il quale io ho un rapporto che va molto, che parte da molto lontano, perché è la mia metà dell'estate insieme a Rimini e Riccione. Poi nel mentre ho conosciuto tantissime persone, compreso anche degli addetti ai lavori, e da lì è cominciata appunto la mia esperienza eurovisiva. Così nel 2011, quando ho partecipato, è stata comunque una bellissima avventura, mi sono ripromessa di ritornarci, e da qua la mia candidatura quest'anno nel 2020 per Rotterdam, sempre per San Marino. Poi è andata come è andata. Per me è un palco importantissimo. Quest'anno avrei veramente desiderato di partecipare per mille ragioni. Mi sentivo pronta, mi sentivo preparata, avevo una canzone molto forte che poteva essere un'ottima occasione, il palco di Eurovision, per farla sentire, per urlare il mio messaggio di piena libertà. E quindi, però vabbè, diciamo che alla fine della fiera sono contenta così, perché questo lockdown forzato, per ovvie ragioni, ha portato comunque grande successo a Freaky. Diciamo che nella sfortuna è andata anche molto molto bene. Hai detto che eri preparata, ma anche noi eravamo preparati, perché avevamo studiato la coreografia di Luca Tommasini, avevamo studiato la freaky dance da fare sotto il palco. Vabbè, la facciamo questa sera guardando la televisione. Esatto, infatti guarda, sono contentissima e stra orgogliosa di essere una delle delegate insieme a tutti i 41 stati a questa trasmissione, perché poi alla fine Eurovision, l'ente Eurovision non ci ha abbandonato all'Eurovision. Infatti sono molto felice, perché è un modo per far vedere effettivamente che cosa è successo in questi mesi. Questa sera niente gara, però in tanti non si erano ricordati che l'ultima volta che l'Italia ha vinto Eurovision è stato 30 anni fa. Te lo sei ricordata tu, che hai fatto una versione di Insieme 1992 di Toto Cutugno? Sì, perché Eurovision ha organizzato questo format su YouTube. Ci sono stati tanti bellissimi eventi collaterali sul web, e c'è stato questo evento che si chiama Eurovision Home Concert, dove proponeva a chiunque avesse partecipato a Eurovision negli anni, quindi non solo noi dell'anno corrente, dell'anno 2020, di proporre la propria canzone, quindi io ho proposto Freaky, e una cover a scelta. No, in verità le canzoni erano due cover, poi il pubblico doveva sceglierne una. Io ho proposto Essenziale e Insieme, ha vinto Essenziale, però poi abbiamo usato Insieme, abbiamo scelto Insieme, perché effettivamente cadeva il trentesimo anno, e l'ho trovata perfetta anche come testo, come canzone, come musica per questo periodo che stiamo vivendo, perché ovviamente rispecchia pienamente il momento storico che stiamo vivendo, e secondo me era necessario doverla omaggiare attraverso il mio riarrangiamento, attraverso la mia versione. Radio Tube Social Village. One man come and go. One man come. come here to justify one man to overthrow. Allora, la canzone l'ho scelta io perché piace a me, perché per me accompagna un sacco di ricordi quando ero ragazzina, quindi io l'amo in modo particolare. Però era obiettivamente difficilissimo scegliere un pezzo solo per introdurre l'argomento di questo, di quest'ultimo blocco, perché stiamo parlando non proprio e non solo degli U2 o U2 come preferite chiamarli, ma del loro frontman, anima, non lo so, l'incarnazione dell'essenza di Bono. In questi giorni Bono ha compiuto 60 anni, beh, è un periodo formidabile per i 60 anni, oggi c'è un altro compleanno, poi ci ricorderemo magari di parlarne nella seconda ora. La biografia appena pubblicata per i tipi di Oepli è Bono, la voce degli U2 o U2, tra musica, impegno e spiritualità, di Loris Cantarelli. Benvenuto Loris! Ciao Marta, ciao a tutti. Allora, Loris, ho letto che tu in realtà raccoglievi la documentazione su Bono da decenni, quindi non è che è un lavoro che è stato messo insieme per i 60 anni di Bono, no? Tu sei un archivista. Sì e no, perché avevo 15 anni fa avevo pubblicato un paio di libri dedicati più probabilmente agli U2. L'anno scorso ho incontrato praticamente per caso il direttore di Collana, Ezio Guaitamacchi, il grande Ezio Guaitamacchi, che mi ha appunto ricordato questa cosa dicendo: sai, l'anno prossimo c'è questo appuntamento, potrebbe essere l'occasione per dedicare una biografia specifica a Bono, perché è vero che come dicevi anche tu, lui è il frontman, quindi è anche l'immagine pubblica più famosa del gruppo, che peraltro a me ha sempre dato un po' fastidio vedere, quando si deve parlare degli U2, vedere, sentire o vedere ridurre tutto appunto a Bono. In questo caso era interessante fare l'operazione contraria, cioè magari riscoprire le cose che ha fatto la band vedendole dal suo punto di vista, che ha comunque ha sempre avuto una vita incredibile. Prima ancora di incontrare i suoi colleghi da adolescente, la sua vita sembrava quasi un romanzo. Perché? Perché? Sono curiosa di saperlo. Dunque, sostanzialmente lui cresce, innanzitutto nasce nel 60, nei primi anni 60, nella Dublino, che era ancora non propriamente, diciamo, alla periferia dell'impero anche dal punto di vista musicale, politico, e però cominciava a avere i primi problemi anche nella capitale, legati al terrorismo, naturalmente dei cosiddetti troubles, no? Dei disordini. In particolare nel 74, quando Bono ha 14 anni, lui vede al funerale del nonno accasciarsi la madre, che muore di aneurisma cerebrale pochi giorni dopo in ospedale. Quindi lui nel giro di pochi giorni si ritrova con il padre e il fratello proprio nel 74, che è anche l'anno in cui cominciano a esserci le bombe dell'IRA nella capitale. Quindi effettivamente è un inizio un po' intenso per per un adolescente. Non ha ancora incontrato gli U2, c'è già una storia che può essere veramente da film, così come la sua stessa esistenza può avere, diciamo, imboccare una cattiva strada o finire malamente. Invece, dopo questi 2 anni di sbandamento, nel giro di una settimana lui si fidanza con quella che ancora oggi è sua moglie e incontra quelli che ancora oggi sono i suoi compagni di lavoro e di vita, perché di fatto anche il suo impegno politico e il suo afflato spirituale coincidono con la carriera musicale. È difficilissimo separare queste tre componenti che non a caso abbiamo scelto per il sottotitolo. Mi fa piacere che hai scelto anche Pride, perché è stato anche il mio primo incontro con è stato il mio voce. Primo anche per me è stato il primo incontro, quindi per me è il ricordo, anche perché essendo difficile scegliere un pezzo, certo. allora andiamo di sensazioni, di ricordi, di emozioni. Sì, è anche vero che è stato probabilmente questa esperienza è stata comune a moltissimi nel mondo. Di fatto è il brano che li ha portati a superare l'ambito, non dico regionale, ma senz'altro delle isole britanniche, e per cui erano di fatto con quel brano arrivarono poi alla gran parte della popolazione mondiale, almeno come notorietà. Poi il Live Aid l'anno dopo e Joshua Tree tre anni dopo, insomma, fecero il salto definitivo a stare internazionale. Oggi sono una di quei 5-6 nomi che potrebbero riempire una settimana un concerti in uno stadio come San Siro, insieme a Bruce Springsteen, Rolling Stones, pochi altri. Eh sì, non a caso poi Bono Vox si è scelto un nome d'arte, nomen, la voce. Sì, la certo, voce. Glielo diedero gli amici proprio negli anni di crescita e giochi nella strada, giocando su un'insegna di un negozio di apparecchi acustici che naturalmente alla latina era coniugato giusto Bona Vox, e naturalmente loro poi lo adattarono. Addirittura accorciandolo al semplicissimo Bono, che è più umile. Allora, ho capito che è un libro da leggere perché è anche una storia di vita, che è un romanzo. Quindi vi ripeto il titolo: Bono, musica, impegno, spiritualità. E anche questo abbiamo capito, che le tre componenti non si possono scindere, e sono molto curiosa di leggere questo libro, che è stato pubblicato da Eupli ed è stato scritto da Loris Cantarelli. Grazie per essere stato con noi, a presto! Grazie a voi, alla prossima! Grazie mille. Allora, noi ci ritroviamo dopo il giornale radio delle 17 con la seconda ora del nostro RadioTube, con l'ora di RadioTube Social Network, tutta l'attualità della rete e dalla rete, con un co-conduttore d'eccezione, e anche della seconda ora parleremo un pochino di musica, ma in maniera molto divertente, perché abbiamo scovato chi ha il segreto per costruire le hit a tavolino. Lui... dategli un genere, vi costruisce la hit su misura, tra poco, dopo il giornale radio delle 17.